el medio no, se lo va a dar a otro. A mañana más. Pasa buena tarde. A ver, por la que voy. Ancora vivo? Vivo, già sono vivo ancora. Per il caldo dico, ciao Natali, mamma di tutti, siamo sempre in questa bolla di calore, guarda, oggi ho dovuto fare la spesa grossa, quindi un bel di acqua, un bel di sabbia per gatti, un bel di tutto, un bel di surgelati, frutta, di tutto, tutto preso. Naturalmente ho gabbato i vicini, come sempre. Ci ho messo la moto al posto della macchina. Sono tornato, ho spostato la moto e ho rimesso la macchina dove. È così che si deve fare. Non devono vincere sempre gli altri, no? Beh, d'altronde io ho due veicoli, cioè se esco con uno, l'altro in sosta deve rimanere, no? Cappa. E tu come va? Ho sentito l'altro giorno, stavo ascoltando Corice Vittorino, che anche tu eri diventato positivo, mamma mia, non si finisce più con questa lagna. Adesso sai che l'OMS ha dato l'allarme per questo vaccino, questo vaiolo delle scimmie, c'è stato anche un caso a Sassari, e anche lì credo che abbia proclamato l'emergenza sanitaria, qua ci vogliono gabbare in tutti i modi, cura a noi. Sì, anche lì hanno parlato di almeno due vaccini subito inizialmente. Sì, 2, 3, 4, 50, 100. Ui, Natali. Se non moriamo di malattia naturale ci ammazzeranno con questi intrulli. Vedrai, eh? Ma cosa ne so io? Ma questa è propagazione che sento. Ehi, c'è propagazione, c'è. L'umore com'è? Non ti sento molto, molto pimpante, dai. E per forza uno si stanca a fare così. Cazzo, devo stare 7 giorni chiuso bene, peggio di essere in prigione. Ascolta Natalia, ma la spesa chi ve la fa? Già c'è qualche vicina, amica di tua moglie che già ve la fa, basta che ve la lasci sul pianerottolo o nel portone anche. Ehi, già me la stanno facendo, c'è il dirimpettaio che mi prende qualcosa se mi serve. Per il resto ho sentito molto silenzio radio, c'è intere giornate che qua rimane acceso. Vabbè, io sono nell'altra stanza, ma non sento bussine, non sento niente. Hai capito? A parte cose, qualche apertura di squelce della propagazione, non ce ne voglia, d'altronde mi. Mamma mia, qua batte il sole, quindi è appena più calda qua la camera. Per il resto, sempre al solito, mi conto anch'io i malanni, i mal di schiena, le malassorti e tiriamo a campare. Cappa. Infatti, io nel frattempo mi avevo fatto questa antenna qua che riceve benissimo, sia in 20 che in 40. Ah, di polo? Come l'hai fatto? Orizzontale, L, a V? A L. Eia, e cosa, che bande fa? 10, 20, 40? O 20 e 40 solo, tipo? No, 20 e 40. No, tra fa 11, 10 e 12. Non so perché, Natali. In realtà poi 10 metri, se vuoi ascoltare in 10 metri, basta la Game Master, capito? È bella larga di banda, quindi già 10 metri li senti bene. A voi, c'è qualcosa che non va. Aspetta un po'. Non faccio premuto male io. No, premuto non salivo la portante, forse. Ah, con la sinistra, vabbè, ho le mani accancarate, capito? cazzo. Siamo rovinati. Avverumi. Guarda, avevo comprato Natali una piccola periferica USB da AliExpress, no? Praticamente il presente, il lettore floppy dei computer torre, no? La torre, il floppy proprio grezzo, no? Quello praticamente è un adattatore a USB, tu colleghi l'attacco che ha il floppy, che non mi ricordo come si chiama, quello con tanti pin, e quello li fa da interfaccia e lo attacchi tramite USB, perché io dai vecchi computer avevo recuperato il lettore floppy e c'ho tanti floppy ancora con dati, con tante cose. Però AliExpress, ti spiego, sta spedendo con un certo codice, un codice strano che non viene accettato dalle poste. Praticamente si stanno appoggiando a questo Fulmine Group, questa specie di posta privata Fulmine Group, e ho letto peste e corna, peste e corna. Il 90% dei pacchi, dei pacchettini non arriva mai, non arriva. O se li tengono, se li rubano, non si capisce. Guarda, se tu vai a vedere su TripAdvisor le recensioni di questo Fulmine Group, ed è una cosa che sta colpendo proprio chi compra piccoli pacchettini da AliExpress, capito? Quando li fanno con quel codice lì, che non viene preso dalle poste ma da questa posta privata, la roba non ti arriva, scompare, capito? È una truffa organizzata, evidentemente. Poi non è che trovi avvisi che suonano, niente, la roba scompare. Il tracciamento si ferma in Italia, cioè come arriva in Italia dice è stato affidato a un corriere locale, dopodiché la merce scompare. Poi si va a chiamare anche questi call center di questa azienda, sono seccati oppure non ti rispondono più, se li scocci praticamente mettono il numero in lista nera e non ti prende la linea, capito? E lì siamo a livelli di truffa, e credo che sia un'azienda che è nata nel palermitano o comunque in Sicilia, dai. Credevo fosse a Napoli, che era più plausibile. Io l'ho pensato ma non l'ho detto, a pensare la roba napoletana, che Fulmine Group, un fulmine vi possa scrocchiare, cazzo, tutti i pacchetti che sono spariti, perché c'è gente che ne ha ordinato 1, 5, 10 pacchetti, no, tutti sai, tutti in un colpo, e tutta roba scomparsa, vabbè che era roba da poco, però, e sai qual è il problema? Che questi restofanti, sempre che venga preso in carico da questa azienda, che c'è sempre l'eccezione, loro mettono, indicano, seppure, che l'oggetto è stato consegnato. Cioè praticamente se ottengono loro, scrivono, mettono sul sito che è stato consegnato, e quindi per AliExpress è stato consegnato, non puoi nemmeno recriminare e avere i soldi indietro, perché dicono non risulta consegnato, sì ma qui a me non me ne hanno dato di roba. Figurati. Quindi se dovete, devi far girare la voce, dovete ordinare piccole cosettine da AliExpress, occhio, perché finché non si risolve questa cosa, adesso stanno tutti segnalando i diretti fregati, questa cosa di non spedire con questo codice strano CNITC, codici mai visti di spedizione, perché sono quelli presi in carico da questa azienda. Era meglio la classica raccomandata CN, no, quelle CN, poi il numero, i numeri, no, che era presa dalle poste come raccomandata. Per carità, guarda, invece migliorare andiamo a peggiorare. E quindi c'è gente che si sta rivolgendo anche alla, come si chiama quella cosa, le Audi Consum, l'associazione dei consumatori, per fare una class action contro questi lestofanti. Perché in effetti sono lestofanti, gente truffata ora. Cosa... Ma poi se vai a vedere il sito, c'è sempre, sai, il video introduttivo, il tipo incravattato, noi, qua, là, il supporto logistico, la rete capillare di distribuzione, ma in lì, dove? Io non ne ho visto uno di questi, a meno che non vengano col a dorso di mula con servizio a consegnarti il pacchetto. No, quelli lì fanno una sola fermata nei loro magazzini. si scelgono la roba. Oppure dice fai cambio, a me piace più quello, sì sì, io ti do questo, tu mi dai quello. Vabbè. E adesso basta, ho finito il fiato. Per lì ripasso in ascolto, qua c'è caldo e mi bevo un po' di acqua. E oggi ho, per il mio fisico ho anche sforzato anche troppo a scaricare quelle tonnellate di roba. Casomai ci sentiamo più tardi, forse, se me la sento, ok? Tanto mi viene la mio come addormento. Ciao Natalino, un salutone anche in casa, ciao. Pace e caldo. Che il caldo stia con voi. Gianfranco, era un periodo che non ti sentiva più in 27, forse anche in mano amatoriale, può essere? Sì, ho avuto dei problemi. Dei problemi fare. No, poi in coso lì in VHF oramai è invasa da questi spagnoli, la 55. Cioè, sì, anche adesso. In VHF, ma cos'è? Propagazione troposferica? No, propagazione rompiscatole, diciamo così, da? Sono tutti i giorni segnali fondo scala, poi c'è la 55, la 550, è una cosa da fantascienza. L'altra volta erano col mandolino, poi ora cantando. Adesso ci sono lo stesso. Anzi, guarda, spengo, faccio prima, spengo, perché tanto non serve a niente. Così non serve a niente la radio. Sono micidio, dalle Baleari. Caspita, sicuramente, guarda, con la bolla di calore che abbiamo, io guardo quel sito, VHF Ducting Forecast c'è scritto, no? E ti fa vedere proprio là, quando ci sono le bolle di propagazione troposferica. E credo che siamo belli illuminati, capito? Con la luce violetta o rosa, tipica della... E vabbè, dovete aspettare un po' che passi la propagazione. Ma sono pirati o sono radioamatori veri? Cioè, si mettono col mandolino a cantare, a me sarei piratone. No, sono radioamatori. Un po' scaduti, ma sono radioamatori. Purtroppo anche i guasti ci sono, non dobbiamo forse essere noi soli in Italia, guasti. Tutto lì, ma ho sentito che c'è il grande Natalino, allora dimmi qualcosa. Cosa ti dico? Che mi sono beccato il Covid, ti dico. Sono positivo sia io che mia moglie. Quello perché vai sempre a ballare in discoteca, a fare i festini di lì in Costa Smeralda, che t'hanno visto, e tu con tua moglie siete arrivati con una limousine, anzi prima in elicottero e poi con la limousine. Cos'è quella gente contagiosa, Natalie? Oh yeah, altro che balletti in Costa Smeralda, Sono sceso giù a prendermi il fresco, mi sono messo alla sedietta lì, fulminato. Solo perché sono sceso in strada a prendermi il fresco. Ma anche qua stanno arrivando gli spagnoli, siamo combinati bene. Natalia, ce n'è anche, ce n'è, oramai neanche lo dicono, ma ce n'è a gogo di questi, di contagiati. Ed è un casino veramente, tanto per cambiare, aspetta, inferno. Questi erano illusi che in estate si mettesse a riposo domani, quello lì è un virus maru, altro che balla. E tu invece, Marco, mi hanno detto che sei sempre al mare, sempre pancia all'aria, così è, a godertela, la faccia nostra. Sì, quest'anno è andata male, quest'anno sto facendo badantato, che mamma appunto non è autosufficiente, quindi nemmeno col binocolo ho visto il mare quest'anno. E comunque per il caldo che fa io non me la sento, perché è un lavoro mio andare anche, come facevo i certi anni, tutti i giorni, andate e ritorno con lo zaino pieno, che a me piace star comodo, la sedietta, il lettino, l'ombrellone, lo zaino poi mio è caricato pesantemente. Un lavoro, non ho più voglia, troppo caldo. Poi da quando è venuta questa cosa ormonale sto soffrendo il caldo non come una persona normale, molto ma molto di più, molto di più, una cosa terrificante. Mi stavo dicendo a Natalino che faccio una pausa, che vado a guantare la bottiglia dell'acqua fresca. Qua c'è poi il caldo, sta battendo il sole, quindi mi trasferisco nelle mie stanze private e mi faccio venire la biocco del dopo pranzo, che ho pranzato da poco. Ok, quindi un salutone a tutti e due, ci sentiamo fra... quando è che passa? Settembre, ottobre, il caldo, ci sentiamo a ottobre per sicurezza. E fa anche a dicembre, gennaio, però mi raccomando, quando sono passati i tornado. Ok, pure tornado mo. I tornado ritornarono. Avanti Natalia, come stai allora? No, ho sintomi, niente, è appena di febbre e basta. Non c'è nulla, no. Ma tu ti prendi una bottiglia di quella roba sarda. Ma aspetta, mi stanno chiamando su un interno. Niente, alla solita con il cazzo nel servizio. E cosa sto dicendo? Vabbè, ma ti è passato adesso? Sei poi negativo? No, sono sempre positivo. Dovrei essere, non me ne ho fatto tampone perché finisco domenica praticamente. Domenica mi farò il tampone e lunedì vado in farmacia se sono negativo. Ehi. Anche a te è arrivato Natali, già potevi tenere chiusa a chiave la porta. Sono sceso fuori a prendermi il fresco, io, mia moglie, quello di Diprov, sicuramente ce l'ha contagiato, quello del secondo piano, perché si è avvicinato, quello, da giorno fulminati. È così che capita. L'importante è che non t'abbia dato conseguenze, anche perché comunque tu sei vaccinato, quindi dovresti essere molto più protetto. L'importante è quello, perché molti che non erano vaccinati, insomma, me ne stanno dicendo anche stasera, se la Pizzicato ne aveva preso questa battosta, non so se ce l'abbia fatta neanche. Se non sei vaccinato è terribile. A mia moglie il primo giorno era nausea, vomito, diarrea, aveva, e chi più ne ha più ne metta. È stato un giorno che non poteva mangiare assolutamente nulla. Infatti fa proprio così, sono quelli i sintomi. Cosa ti vuoi che ti ricantare? Adesso aspettiamo che c'è quello adatto, quello un pochettino più moderno, e vediamo un po' se si riesce a evitarlo, ma tanto mi sa che questa cosa sta diventando endemica oramai. E vabbè, non ci facciamo mancare niente. Poi nata lì, quando ce l'hai la prova, no, si sta avvicinando a settembre, credo. No, a novembre, entro il 30 settembre deve arrivare la domanda là. Cosa ti volevo dire? Asco, hai possibilità tu di vedere la domanda che si spedisce là a Cagliari? Perché adesso non ci vogliono più delle serie fotografie, così mi dai conferma. Mamma mia, questi qua stanno arrivando forti. Dovrei guardare il sito del MISE. Aspetta che accendo l'attrezzo. Santo cielo. Ma tu li senti, Natali, con una nuova antenna questa propagazione? Perché io ho messo tutto squelce, RF gain, tutto girato, ma qualcuno continua ad arrivare. Sì, li sento. Si stava meglio quando si riceveva di meno. Ioi. Guarda, qua si fanno. Se non lo sono ancora occupata. È un macello. Adesso magari ne vuoi di meno di preparazione, così è. Sì, più ce n'è meglio, Questo quanto ti arriva? Fortissimo, questo mi arriva lo stesso. Mi auguro di passarlo. Acqua, è una scena, insomma. Già lo passi tu. Vediamo un po', allora, com'era? Domanda, esame radioamatori, così. Eia. Perché adesso deve essere, non ci vogliono più le fotografie autenticate, meno male, se non mi tocca andare al comune a fare autentificare due foto, boh, vediamo un po'. Vediamo un po' se... Allora, io l'ho trovato sul MISE. Allora, speriamo che non sia roba vecchia, però sai com'è. La fanno sempre online, giusto? Sì signore. Tu sei molto bella, però in realtà io sono... Allora, per conseguirla, si deve presentare domanda di ammissione all'esame in bollo di valore corrente, cioè 16 euro, all'ispettorato del Ministero competente per territorio, quindi a Cagliari. Secondo quanto esposto articolo 2, 3, 4, allegato 15, bla bla bla bla. Il contributo dell'esame per il conseguimento è fissato in 25 euro, sempre l'articolo 5 allegato bla bla bla bla bla. Il programma esame è riportato nel 26 del codice civile che con la nazione del discreto unificazione delle patenti pubblicata agosto, le patenti della classe B sono già previste, vabbè, per non c'è più cibo. Gli aspiranti al corso di in possesso di titolo esame parziale, ma qua non c'è più niente. Vediamo un po', c'è un modo richieste. Quando mi dice, quindi, ecco, marca a bollo a 16 euro, copia di un documento di identità in corso di validità, la copia della patente di animatore, questa è la palla di centro. No, quello per la missione agli esami devi guardare. E tanto fotografia non ce ne vuole più sulla patente. Sì, allora con la domanda in casa a bordo. Da 16 euro. E io ce l'ho già la domanda qua, già scritta e tutto. Ah, ci abbiamo anche cosa sono, una volta d'anni. Cosa Gianfrassi? E che questo che si sente sotto deve essere di Napoli. Infatti. Vabbè, ma comunque dove stai facendo il corso lo sanno, è Natali, quindi anche quelli si è tutti contagiati. No, sono due lezioni che non ci andiamo. Adesso non ci posso andare io, venerdì se è aperto sempre. Bisogna stare allerta, quindi purtroppo così eccetera eccetera, tutto lì. Ma chissà che almeno quello ti vada bene, così almeno c'è qualcosa un po' di più per divertirsi. E infatti speriamo che almeno quello vada bene. Infatti, ma io vediamo un po', io di là non sento più nessuno veramente, e poi controllo le antenne sempre, niente, è una benitenza, e c'ho un'antenna anche bassa, no? E mo cosa faccio? Cioè paradossalmente c'è sempre quello parlando che ti fa la testa a cacco. adesso cosa ci metto? Uno stilo, il gommino per fare ascolto e basta, altre soluzioni non ce n'è. No, ieri notte ho sentito delle chiamate sul tardi, di là dove tu senti Casotto. Ma tu li senti lì, gli spagnoli? No, non li sento, io ho un'antenna piccolina. L'ho fatto apposta. Lo so. Ma stanno attento, ti preoccupare, grazie. Ciao. Ce n'è uno di Alghero, per esempio, quello che dice sempre Barracco Zero, che lo sento benissimo. Ma chi è sto? Sì, boh. Non so cosa dirti, Natali. Io sia su una sia sull'altra. Quella lunga non la sto neanche usando, non si può dire, perché se no è un casotto, perché io le tengo con lo squelcio sempre, ma questi stanno ore parlando, devono essere due pensionati, mamma, non è Alvini più, e meno male, adesso forse qualcuno gliel'ha detto, e non stanno, perlomeno, credo, non so certo. Il mandolino si sente molto di meno. E qualcuno si è incavolato e gliel'ha detto. Evidentemente, si sono spostati. No, perché c'è anche la 550 occupata, capito? Sono parecchie frequenze, quindi l'unica UHF, tutto lì. Altre soluzioni non c'è. Almeno di lì la propagazione c'è lo stesso, però molto, molto inferiore, perlomeno da queste stazioni di singolo, magari può sentire qualche ripetitore lontano, però questi QSO infiniti non si sentono. Ma ogni tanto chiamano. Ieri notte è tardi, ho sentito una chiamata, ma due secondi mi è colpo. Ma cos'è? Stanno venendo a prenderti, Natali? Devo essere che non lasciano passare, sono qui sotto. Mia, adesso si allontana. Evidentemente avrà problemi a passare. Non ti ho sentito, sul passaggio c'è la sirena. Ho detto che forse avevano problemi a passare ed erano qui sotto con la sirena a tutto volume. Quella, il volume non si può abbassare, cioè quei 120-130 dB, per sparare a tutti. Infatti. Comunque tu sei sempre allenato, sì. Sei pronto? Stiamo preparandoci. Cazzo, mi avevo costruito lo scillofono e non sono riuscito a buscare un tasto, te l'immagini, di quelli verticali. Ma quello classico in basamento in legno, quello tipo PTT, tipo poster, dai. Ne avevo prestato uno a un amico. Bello, gatta, un Kempro era. Me lo sono fatto fregare, perché se n'è andato all'estero e non ho visto più nello scillofono e nel tasto. Era bellino quello che avevo io. Che lo volevo prestare, ma non l'ha voluto. Chi è che non l'ha voluto? Natalino, perché quello io glielo volevo dare, però siccome sai, ereditato da mamma, mia zia prima di tutto, no, era del padre, dice magari regalarlo no, però prestaglielo per fare pratica, però Natalino ha detto, ma se poi mi cade lo rompo, capito, per evitare, e non ce l'ha da quando ne ho memoria, da 50 anni, 60 anni, è proprio quello tipo PT basamento in legno. Ne fanno anche le repliche, però le repliche sono più nuove, forse cambiano anche appena le dimensioni, proprio quello lì. È quello classico, il legno rotone, io ne ho uno qua davanti che è dalla radio, ma comunque quello non ti serve, Natalia, cioè mica devi dare la prova in CV, non c'è più. No, mi serviva per allenarmi io, capito? Quando finivo questa cosa, se mi va bene, voglio imparare bene il CV doppio. È una questione di orecchio, una roba da musicista. Lo so. Avevo anche un bel tocco col tasto verticale e anche veloce andavo. Vabbè, ma ancora. No, non lasciano mai questi qua. Sono costato a abbassare il volume, perché questi spagnoli sono peggio dei sassarisi, quando attaccano a parlare non ne ha finito. So, c'era Mizzusi. Marco, sei tornato? Sì, sto facendo la spola col frigo più che altro. Sì, stavo guardando quel sito, praticamente c'è un bel corridoio tra le Baleari e la Sardegna, tutto rosso, viola, rosa, praticamente dice da molto intensa a estrema la propagazione troposferica, quindi bisogna accarrarsi lì, proprio quando c'è questa bolla di calore è così. Ce ne siamo accorti comunque, non c'era bisogno che ce lo dicessero, più che a me sembra un'autostrada che hanno fatto. Sì, in 27 già, vabbè, metto lo squelce, se poi alzano ancora il tiro, lo alzo ancora di più lo squelce. No, sennò troppo belame di fondo, mi viene male di testa poi. Natalino è fortunato che c'ha un'antenna bassa e quindi non li sente. Ma se era come avanti ieri, vediamo che c'è. Intanto c'è un segnalone. Mi sa che sta risalendo, perché c'ha degli sprazzi questa cosa a fondo scala. Ma parli della 27 o VHF? No, in VHF 525. Questo è quasi fondo scala. 550, vediamo un po'. Ho 550. Che c'è qua sopra? E adesso ci sono anche qua, giusto per non lasciarci sole. Magari gli stessi, premono due mic, cioè io rompiamo le balle ai sardi in due bande differenti all'unisono, anche in tre possibilmente, il 27. Oh, guarda, riceve. Non si capisce un tubo e non so se Marco riesce a capire qualcosa. Marco, in antennino non arrivano, per fortuna, perché se no entra il caldo, se passo il cavo per l'antenna esterna, comunque non li sento, perché è troppo bassa, è attaccata a ridosso del palazzo e poi è come un primo piano, dai. E in più è solo UHF in teoria quell'antenna lì, quella Sirio. Dimmi, Natali. No, stavo ricevendo su un altro posto. Quell'antenna che ti ho detto mi stavo vedendo. Però sotto si sentiva gente comunque. C'era gente, c'è gente. Quelli lì sono che arrivano forti. Ma hai già mangiato, Omar? Sì, in realtà ho anche ritardato perché sono andato a fare la spesa grossa in macchina. Perché stiamo mangiando un po' orari più normali, da primo pomeriggio se riesco, non tutti i giorni, però stiamo migliorando. Anche la 5.50 partita, ero di lì sperando che lasciasse libero, invece è tutto un casino. Vabbè, lo spengo e si arrangia, non so la pena tanto. Fa finire quando arriva a Natale, si è affrettato tutto, non c'è più nessuno, parla, come si diceva una volta, parla col muro. Col muro parlo. Vabbè, poi a ottobre, novembre cala la propagazione. Vabbè, in HF bene o male ci lavori lo stesso. In room, in locale, insomma. Speriamo di poterlo fare, almeno se mi va bene. Sento i vecchi amici. Già con l'antenna i 28 ce li ha assicurati, e anche in maniera abbastanza convincente. Poi dunque dove andava? Credo che arrivi. Ah, poi in 24, cioè anche la 24 e 9. Più sotto inizia a essere in salita, se non c'è un accordatore di lì ti conviene già passare su qualche dipolino. Facciamo la notizia. C'ho anche l'antenna, guarda. Ma sei sempre lì, a 2,5? No, questi sono sotto, in 40. Ah, quelli già li senti comunque. Anche lì c'è un ciabotto, un scapcio alla mazza. L'ho acceso ieri per vedere, ma sono subito scappato. Sì, quando la propagazione è troppa, poi avevo pochi kilohertz, spanno dire ogni kilohertz proprio in stazioni che chiamano, non ne capisci più niente. No, ho già li sento, mi ho fatto un'antenna a L. Per il momento è bassa, ma già ricevo lo stesso. È un po' più. Cosa copri, Natali? 40 e 20. No, ho capito, da quanto? 40 e 20. 40 e 20. La stazionaria è provata. No, non la lascio così, no. L'ho messa provvisoria. È solo per ricevere adesso. Devo mettere sopra in alto, la devo mettere quando sarà. Adesso poi vediamo come va la situazione, se no non è meglio. Vabbè, almeno una prova, no, non deve farsi a nessuno, una prova di stazionare a vedere quant'è. Appena abbiamo tempo faremo anche quelle, le prove, ma penso stazionare non ce ne sia, vediamo un po', se no basta poco per accordarla. Dove sei? Mi ha detto anche i 20, giusto? Sì, riceve bene sia i 20 che i 40. Sì, io so, mi dimentico sempre dove diavolo finisce l'antenna. Forse l'ho trovata. E meno male me l'ho scritto pure. Oh, yeah. Caro Natalino, la vecchiaia è carogna, diceva quello. Ah, io me la trovi l'antenna. Aspetta, Natali, non trovo l'antenna, dove è finita? Guarda che non l'abbia regalata a qualcuno, venduta. Guarda, poco sono in bambicioni. Già vedo come funziona, sto toccando l'altro commutatore. Senti che rumoraccio, senti, mamma mia, no, ve fischia. Cazzo, qua ricevo bene. L'altro giorno stavo ricevendo questi QSO tutta la sera, era in 40, anche da presto mi. Dai, almeno un ascolto ti posso usare, anche tu Marco, se c'è qualche possibilità, a 14 110 ti faccio una chiamata, cioè non una chiamata, faccio una prova di chiamata a bassa potenza per vedere se mi ascolti, perché è un po' troppo ferma questa, la radio, perché ne faccio un altro, credo, o no? No, questo fa parte dello schema. Quando sei pronto me lo dici. 14110. Dimmi quando posso andare. Vai, vai, sono lì. Sì, mi senti? Negativo. Non mi senti? Andiamo bene. USB. Copiato, ho sentito 14110. Sono con un filo dentro casa, un filo da 3 metri, così buttato così e attaccato alla tendina. Visto. Come chiara o remata, proprio bassa bassa? Purtroppo una gianfra in quattro mura, non entra segnale qua. Io l'ho messa per la 27, quel filettino lì, quelli in sassa li senti a 27. Prova a dire qualcosa di significativo, cioè, che per vedere se è intelligibile, così te lo riporto qua. Fra 5 secondi, vai. Ok. Tra poco vado. Nathalie, per te niente, ma sei sicuro di essere Isonda? Ehi. Vado, eh. Niente? Sì, ho sentito. Prova apparato. Italia, Sardegna, QKC, com'è adesso? Già me lo sono dimenticato. Comunque sì, arrivi. Discretamente, però non devo toccare il ricevitore. Se lo tocco c'è una specie di attenuazione. Tieni presente che io sono un dipolo, che è abbastanza direttivo, quindi è probabile che non esprima, insomma, a bassa potenza, che non esprima tutta la sua potenzialità. Per te, Nathalie, niente, tu mi preoccupi. No. Ho provato due apparecchi e due antenne diverse. Nathalie, sei sicuro che il modo di emissione sia USB? Perché magari se è entrato l'altro, quale stai usando tu? L'808, quella radiolina XH adatta? Io quella sto usando. No, una radio vera sto usando, due vere. E come? Arriva da me tu ce l'hai esterno il filo, vero? Non è interno il tuo dipolo? Esterno. Peraltro, Gianfra, quella radiolina famosa lì c'ha un dito di polvere sopra, la devo tutta pulire col pennellino. Solo polvere, per il resto è nuova. Sì, ce l'ho anch'io, se era la X Trick Track. Ce l'ho anch'io che devi premere due volte per passare da USB a coso lì all'USB. Come diavolo era? Poi, non mi ricordo più. Adesso mo che antenna ho messo io. Non mi ricordo più come sono le antenne, per immaginarci. Quindi così l'ho tolta. Che casino. Quindi se sposto così cosa succede? Si sente un po' di più, se premo questo pulsante si accende e poi cosa bisogna fare? Boh. Comunque il tuo è Quebec Kilo Yankee, giusto? Che prima ho detto QKC, mi ero incasinato. Tu Quebec Kilo Yankee. Sì. Ma a cosa sta a fare? E come mai è nata lì? In 20 metri, anzi è più corta l'onda, anche con un coso corto dovrebbe ricevere. Poi vabbè, lì è sempre... Ma dove l'hai messa tu? Sul tetto o fuori dalla finestra, il dipolo? Natalino? Aspetta, forse sta regolando, dai. Forse si è dimenticato il coso di inserire lo spinotto, l'antenna. Comunque io poco lo uso, perché io quella radiolina l'ho usato in macchina con antenna risonante per non dire taratta, quella multibanda con gli spinotti, no, che cambi banda 40-80, e c'è una, quando sei in zone, certo non in mezzo ai palazzi, ma sei che ne so, a San Francesco, è in zona un po' libera, una ricezione favolosa. E anche poco corremme prende, ti dirò, a parte gli 80 metri, vabbè, che quelli sono rumorosi di loro. Ma adesso non mi funziona più niente. Ma buona notte. Che cosa è successo? Quindi io ho toccato. Ma te ne immagini che non mi ricordo più com'era sta cosa? E poi ci ha promesso anche i segni, che sono sparito il caldo a sotto gli adesivi, addirittura. Andiamo bene. Aspetta, Gianfran, un po' di voce, non sento quasi nulla. Anche questa sta bruciando? 1, 2, 3, mi senti? Sì, adesso sì, no, ma quando magari se ti sposti di lato, ti allontani dal mic, che la tua linea è forte, il radio, tu un po' meno, dai. Allora, vediamo un po'. Quindi sto trasmettendo e non ci sono stazionari. Quindi sta andando bene. Dicevo Nathalie, adesso passo su un'altra antenna verticale. Verticale, sì, siamo sicuri? Sì, credo di sì. E di lì non c'è neanche la scusa della direttività. Nathalie, AC6, AC. Eia. No, adesso non t'ho sentito io. Parla. Parlo con Muro. Ah, mi sa che sei calato un po' di segnale. Un po' di segnale sono calato. Boh, mi pare strano. Non posso né aumentare né diminuire con questo. No, no, adesso va bene. Sei sempre lì fermo? Hai controllato tutto? Guarda, sto ricevendo in 40. Guarda. Riceve, ho ricevuto anche in 20 e quindi non è l'antenna, sto ricevendo. Però chiamami. L'ho spostato in 40 adesso per vedere se stava ricevendo e sta ricevendo. Quindi devo provare lì? Direi proprio di sì. Qua, 7140 c'è gente. No, aspetta, fra di prova, dove veniva i metri? Con la verticale, vedi se arrivi qua. Anche tu, Nathalie, quant'era? 14110. Sì signore. Dimmi quando andare là, perché ce l'ho nell'altra stanza. Nathalie, però è occupata, ci spostiamo? 145 occupata. Prova 114. Ok, adesso provo. Quindi 14 114. Sì, LSB questa volta. Prima si era bravo. Ah, ok. Datemi il via, vediamo se qua funziona. Io ci sono. Marco, dimmi quando posso andare, Marco. Sta girando la manovella. Allora provo a andare per te, Nathalie. Niente? Beh, Nathalie. Negativo, Marco, sento qualcosa. Mi stavo azzuffando con l'impostazione, porca miseria. Non trovo, non vedevo la connotazione LSB. Adesso ci sono. Se provi, vado in fretta là. Sì, ci provo e di nuovo. Nathalie lì, ma si era bravo, ovviamente. E io. Allora, niente. Cucù. Cucù. Né in una né nell'altra. Né in verticale né in orizzontale. Andiamo bene. Per te, Marco. Allora, sono arrivato correndo. No, no, in verticale, vedi, proprio verticale non arriva. Però conta che le mie condizioni sono più che disastrose. C'è un filettino da, sarà 2,5 metri, proprio infilato in un forellino della tendina, e quindi pende anche, capito? Prima sì, con la cos'era, direttiva, con la verticale zero. E da Natalino? No, non è negativo, non arrivava. Cosa che capita? Vediamo se rimetto. Ecco. Adesso ti chiamo con l'altra, Vediamo un po' che antenna c'ho qua. Dovrebbe andare. Sono di nuovo in orizzontale. Come va? Nisba. O è troppo bassa? Beh, No, a questa frequenza la lunghezza è tale, la lunghezza d'onda, che evidentemente ti salta e ti lascia al buio. Per te, Marco? No, qua non arriva più nulla, strano. Non arriva più nulla, ce l'ho anche dalla parte opposta rispetto a te. Capito? Non verso Monteoro, ma dalla parte, vabbè, niente. Che poi mi bastava portarla qui un attimino, il filettino, vabbè, spero di aver azzeccato il modo di emissione, l'SP, c'era, 114, stai parlando? No, negativo. Ogni tanto sento qualcosa. Sì, quando la metto sul tetto. Sì, stanno parlando. Per recuperare la capricolare. Lo senti? E poi te la faccio vedere io se lo salgo su. Ma quanti fatto isolata dalle... Stanno chiamando. Lo senti questo che sta chiamando? No, ho abbassato tutti i volumi. Non ho capito, l'ho portata qua, magari migliora, magari no. Marco, tu lo senti quello che sta chiamando? Ma in LCB? Sì. No. No, non senti il rumore di fondo. E prova a parlare tu. Beh, ha fatto anche una chiamata abbastanza lunga. E niente, boh, vabbè. Qua è tutto a posto, la parte della potenza che è un po' bassa, però questo momento poi qua si muove dal caldo. Natali, non è che la chiamata hai sentito di quel collega che stava chiamando? C'è il volume a zero, non l'ho potuta sentire, no. Perché lo tiene a zero? E ha sentito tutto il QRM. Allora come fai? Al dunque tieni sempre il volume a zero, eh? Trasmetti solo e poi dici che non senti nessuno. Se era a zero non lo potevo sentire, no? Erano spente quando... Se parlo le spengo. Sono bastato in giù per un saluto. Che pazienza. Comunque io stavo ascoltando e sentivo poco fa. Buon appetito, ciao, Sì, è in 20, è in 40. Ma non è che verranno a fare un controllo? Te l'ho fatto anche sentire che stavo ricevendo. Sì, ci credo, ma da vicino è più difficoltoso. Vabbè, sono prove che si fanno a distanza ovviamente, perché la lunghezza d'onda è tale che funziona così. E infatti quando le ho messe a posto l'antenna, siccome c'ho la carrucola dove devo attaccare quel dipolo che devo fare. E adesso mi ho messo questo provvisorio, capito, per ascoltare il blu. Allora se salgo un po' più su nella zona USB già sento stazioni. E dove sei? A 7000? Aspetta. Boh, 14.23, 14.2 tanti, non so. Fate un esempio, eccomi. Vai via il segnale però. Proviamo una frequenza molto più in alto. Che ne so, a 21 Natali, a 21 ci vai? Però devo andare a cena. Vi devo salutare che mia moglie mi ha già chiamato, là. Ci sentiamo più tardi all'inizio. Da me capa Natali, buona cena allora. Alle prossime, a te Marco. Sì, ciao Natali, buona cena. Che ora è? Sì, è mezza, 7:20. Per esempio. Uniform Italy November. Sì, qualcosina anche con questo pezzo di filo però dentro casa, conta che c'ho anche la retina alla finestra. E quindi lì fa da schermo anche. Però bene o male Certo, siamo entro l'antenna della 27 e ha voglia di ricevere, però non posso rispondere qua, capito? Beh, è ovvio. Vabbè, tieni presente che anche io sto uscendo basso e quanto è qua? Mi dà pochi volti. Ah, ecco, questa antenna vicina tende a fare qualche problema. Prendiamo un po' se sposto. Una luce spenta e vabbè, potevano fargli la serigrafia migliore a questa radiolina, francamente io sono sempre in penombra, quasi sempre in penombra e non vedo una mazza. Si è illuminato il display ma la serigrafia dei tasti no. Ma dimmi una cosa, è quella che c'è anche la banda aerea, quella radiolina? Oddio, io non mi ricordo perché non l'ho mai manco provata se ce l'ha. Questa c'ha l'HF, AMSSB, l'FM 8808, forse anche la banda aerea. Però non, siccome non è di interesse, non l'ho mai provata nemmeno. No, perché io ce l'ho, adesso non ricordo dove l'ho messa. Però da qualche parte ce l'ho. Com'era? X data, il modello? Allora, XH data, mi pare sì, cioè D808, aspetta, sì, D di Domodossola, 808, quella con la SSB, che qui c'era l'equivalente identico di forma ma solo AM, o FM commerciale, vabbè, però quella non, in HF è inutile senza la banda laterale. Cosa ha detto? D878? No, negativo, 808. Vediamo se come la mia. Dunque, dalla prima cosa vedo che... Sì, ce l'ha la banda aerea. E è la stessa che ho io. Sì. No, banda aerea, ripeto, mai provata, anche perché anche con l'Uniden magari rispetto a una volta le comunicazioni siano ridotte, forse aveva quel sistema Hackers, non so cosa sia, ci sentivo molte ma molte meno comunicazioni verbali, ma poi la banda aerea è di una palla, guarda, di una... Non ha senso per me l'ascolto di quelle bande, a meno che uno non abbia interessi particolari, che ci lavora o roba del genere. No, guarda, invece c'è un canale molto interessante, che è quello che puoi verificare anche su Flight Simulator, Radar Flight Simulator. La frequenza è un po' in alto rispetto... però si sente bene, se tu la metti ti meraviglierai, è molto attiva, è quasi ininterrotta, perché gestisce anche il nostro traffico qua in Sardegna, da Sassari a Cagliari, e poi tutto il sud Italia, centro Italia, e un pochino meno forse verso, non manca l'altra Italia, cioè praticamente tutto il territorio nazionale. Solo che il segnale arriva dall'imbara, però è abbastanza forte, probabilmente lo senti. Porca paletta, che caldo. Caspita, oggi è Natalino, ma c'è nato prima del dovuto, c'è pronta alle 7:30, vabbè, oggi ancora prima, perché sennò dice che deve aspettare per fare forse un'insulina, non mi ricordo cosa era. Se si mangia tardi è un problema perché deve stare sveglio, non so, per farci un farmaco più tardi, capito? Per quello lui cena presto. E i suoi ti acciacchi dalla vecchiaia, c'è poco da scappare. Così via, ti hanno il pacchetto, un regalo. Quando ti hanno la pensione ti hanno...